Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 10 minuti, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezzi e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di cosa parleremo oggi? Parleremo della legge di stabilità, come sapete sono aperti i lavori in Parlamento in queste ore per modificare il DDL proposto dal governo. Come sapete ci sono state anche parecchi cambiamenti in corso d'opera nelle ultime ore, è arrivato poco fa quella che sembra la parola definitiva, ma insomma ancora non si può dire, visto quante volte l'abbiamo detto, sugli esodati, sulla copertura per quanto riguarda gli esodati. Ci occuperemo poi di Europa perché per due ordini di motivi. Il primo è naturalmente quello che sta avvenendo oggi, ossia le riunioni che riguardano la nuova tranche di aiuti alla Grecia, da una parte. E dall'altra parte questa questione del budget, il dibattito sul budget comunitario, quello che riguarda il 2012 e il 2013, in particolare il 2012 con quello che è passato almeno nei titoli come il blocco per quanto riguarda i fondi all'Emilia, i fondi per il terremoto in Emilia. Ci occuperemo di questo e parleremo anche di finanza con due vicende. La prima riguarda quello che ormai sapete tutti più o meno da stamattina, ossia il fatto che Sawiris sarebbe intenzionato ad entrare in Telecom Italia. Questo sta spingendo al rialzo il titolo, che in questo momento guadagna il 4,27%. Vedremo di capire quali possono essere gli obiettivi dell'investitore egiziano. E dall'altra parte di una questione che è uscita fuori sostanzialmente sabato sera e che riguarda la decisione delle autorità americane, della Federal Reserve, di far slittare gli accordi di Basilea 3. Quali sono questi accordi? Ve ne abbiamo parlato molte volte. Sono quegli accordi che richiedono più stringenti regole per quanto riguarda il capitale delle banche e che richiedono insomma una vigilanza maggiore soprattutto dal lato dei derivati. Come sapete c'è grossa preoccupazione anche da parte delle imprese, in questo caso di quelle europee a questo punto, per l'arrivo di Basilea 3, perché questa stretta sui criteri patrimoniali potrebbe portare ad un'ulteriore stretta del credito. Questa scelta da parte delle banche americane è stata fatta anche per una questione di derivati, insomma in pancia ce ne sono ancora troppi e questo avrebbe comportato un esborso di 50 miliardi di dollari solo per le prime 19 banche americane. Di tutto questo parleremo di mercati, naturalmente mercati piuttosto deboli dopo un'apertura positiva, il FTSE MIB cede lo 0,33%, il FTSE All Share allo 0,37%, va giù anche il resto d'Europa complessivamente, anche se Francoforte si mantiene appena positiva e l'America è negativa di poco, dello 0,17% sul Dow Jones, dello 0,17% sul Nasdaq e dello 0,11% sullo Standard & Poor's 500. 349-238-6666 per i vostri SMS, le notizie in breve di oggi. Iniziando come al solito dalle materie prime, l'oro è salito in Asia in apertura a 1734,75 dollari l'oncia, consolidando di fatto i risultati della settimana. Per quanto riguarda il petrolio, si segnala un lieve calo in America con il WTI con consegna a dicembre giù dello 0,26%, 85,85 dollari al barile. Per quanto riguarda invece quello quotato in Europa, il Brent è in risalita più 0,72% a 110,19 dollari al barile. L'economia internazionale ci porta innanzitutto in Giappone, dove crolla letteralmente il prodotto interno lordo nel trimestre luglio-settembre. Il PIL cede lo 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti e il 3,5% su base annua. La banca centrale giapponese, la Bank of Japan, fa sapere che prenderà misure monetarie al passo più appropriato per massimizzare gli effetti anche sotto il profilo della crescita. Per quanto riguarda l'Europa, la Germania ha collocato titoli di Stato a 6 mesi per 3 miliardi e mezzo di euro, continuando a registrare tassi sotto zero, una buona domanda, rendimento medio pari a meno 0,0116 contro il meno 0,022% dell'asta precedente. La domanda ha raggiunto i quasi 7 miliardi contro un'offerta massima di 4 miliardi di euro. Per quanto riguarda i titoli di Stato di casa nostra, invece lo spread tra BTP e Bund è salito al massimo di giornata a 367 punti base. Tutto questo secondo le indiscrezioni che si sono diffuse oggi di una bozza del rapporto della Troica sulla Grecia, secondo la quale il paese ellenico potrebbe aver bisogno di altri 15 miliardi di euro entro il 2014 e di altri 17,5 per il biennio 2015-2016. La Spagna non sta assolutamente considerando una ristrutturazione del suo debito, dice il ministro delle Finanze Luis de Guindos, spiegando che la riduzione del deficit andrebbe valutata in termini strutturali e che nessuno mette in dubbio gli sforzi fatti da Madrid. Nel frattempo, l'Associazione delle Banche Spagnole ha annunciato l'impegno dei suoi membri a bloccare per i prossimi 2 anni i pignoramenti di case i cui proprietari non riescono a pagare i mutui. Impegno, hanno spiegato, preso per ragioni umanitarie dopo che nei giorni scorsi 2 persone si erano tolte la vita. E poi c'è il Portogallo. In 2 anni abbiamo ottenuto risultati inizialmente previsti per il 2016, lo dice il premier portoghese Pedro Passos Coelho a Lisbona in conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel, alla quale dice la Germania ha sempre sostenuto in modo costruttivo il Portogallo quando ne ha avuto bisogno. Vi abbiamo già detto i nostri titoli di Stato, aggiunge il direttore generale del debito pubblico al Ministero dell'Economia Maria Cannata che il clima è migliorato, c'è un ritorno degli investitori istituzionali e ha sottolineato che i timori degli investitori non sono sui conti pubblici a livello del debito ma su crescita e incertezza politica. Ed è quello che sottolinea anche la Banca d'Italia oggi, dice il calo dei rendimenti denota appunto un ritorno di fiducia sulla sostenibilità dei conti pubblici italiani, anche se i maggiori rischi arrivano appunto dalla crescita debole e dall'incertezza sull'evoluzione del quadro politico che minaccia l'azione di riforma. Ci sono poi le notizie che arrivano dall'inchiesta della Procura di Trani sulle agenzie di rating. La Procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici di Standard & Poor's e Fitch nell'ambito dell'inchiesta. Il giudizio espresso da Standard & Poor's, questo secondo i pubblici ministeri naturalmente, il giudizio espresso dall'agenzia Standard & Poor's il 13 gennaio sul sistema bancario italiano, che portò al declassamento del rating del debito del paese, era errato e addirittura esattamente contrario alla situazione reale, scrive l'accusa. E a quanto pare la Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti anche sta indagando sulle agenzie di rating. Lo ha detto il procuratore di Trani, Carlo Maria Capristo, ha stimato in 120 miliardi di euro il danno erariale che sarebbe stato provocato da presunte manipolazioni di mercato da parte delle agenzie. Da segnalare, giusto per ricordarlo, insomma, notizie che vi abbiamo dato comunque nei giorni scorsi, che una settimana fa circa Standard & Poor's ha perso una class action in Australia. Ingannò, secondo l'accusa, 13 comuni con un giudizio di AAA su titoli derivati che si sono poi rivelati tossici. E noi, dalla finanza alle agenzie di rating, dal lavoro della procura, veniamo innanzitutto alle finanze pubbliche italiane. Dunque si sta lavorando, lo sapete, sulla legge di stabilità. Molte modifiche sono già arrivate nei giorni scorsi. Come sapete è saltato, il fatto più grosso naturalmente, che è saltato il taglio dell'IRPEF inizialmente previsto dall'esecutivo. Si sta tentando di trovare un orientamento diverso per alcune risorse, soprattutto si sta ipotizzando di tagliare il cuneo fiscale. C'è un nodo di coperture, soprattutto un nodo di efficacia, perché insomma i risparmi possibili, dato che si è deciso anche di non far aumentare l'IVA, quella dal 10 all'11%, l'IVA che al momento è dal 10 all'11%, c'è un problema di come trovare i soldi per tagliare questo cuneo fiscale. Intanto si lavora su altri fronti, come per esempio quello degli esodati. Vincenzo Miglietta, buonasera. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Dicevi bene, si parla del nodo degli esodati e Simone, poco fa è arrivata la notizia dell'intesa tra governo e relatori di maggioranza. Sarebbe stata individuata la copertura per far sì che da una parte venga ampliata la platea dei cosiddetti esodati. Al momento il governo era fermo a quota 120.000, si arriverebbe così ad una quota di 130.000, per cui sarebbero coperti ulteriori 10.000 ex lavoratori, e in più cambia anche la platea stessa dei lavoratori per i quali scattano le nuove tutele per gli esodati. Dal nuovo emendamento, Simone, dei relatori di maggioranza, lo ricordiamo, vi sarebbe il consenso da parte del governo, ma ancora più importante il via libera della Ragioneria dello Stato. Si fa riferimento a chi è entrato in mobilità entro il 4 dicembre del 2011. Scompare il vecchio riferimento ai lavoratori licenziati. Che è, perdonami Vincenzo, prego, che è il momento di entrata in vigore del Salva Italia, se non sbaglio. Assolutamente, no? Assolutamente. Perfetto. Mentre fino a questa mattina la platea era allargata anche ai lavoratori licenziati prima del 2011 per il fallimento della propria società, era un riferimento così generico. E questo per quanto riguarda questo per quanto riguarda la platea, ma i soldi da dove li tirano fuori? Perché il problema nel fine settimana era stato esattamente questo, insomma, si era ipotizzata una cosa che il relatore del PD Baretta aveva chiamato l'autocopertura, che sì. Sono franco fino in fondo, non è che l'avessi capita molto e sospettavo che la ragioneria gliel'avrebbe bocciata, cosa che effettivamente è successa. A questo punto la copertura dove si trova? Allora, la copertura si trova in questa maniera, si fa sempre riferimento ai famosi 9 miliardi già stanziati per gli esodati e la base di partenza è questa. Mi rendo conto che 9 miliardi è una cifra ben definita, vengono aggiunti ulteriori 100 milioni e si fa di base riferimento a questa cifra qui. Qualora il nuovo emendamento prevede, lo ricordiamo, un emendamento che però deve essere ancora approvato dalla Commissione Bilancio, qualora questi soldi non fossero sufficienti, si agirebbe con due meccanismi. Il primo è quello a cui accennavi tu, cioè si fa sempre riferimento alle cosiddette politiche attive per la reintroduzione sul posto di lavoro, cioè si cercherà in parole povere di riportare qualche esodato a lavorare, quindi sarebbe comunque una persona in meno che dovrebbe accedere ad una sorta di pensione. E invece il meccanismo più importante, qualora questi 9 miliardi più 100 milioni non fossero sufficienti, si ricorrerebbe alla deindicizzazione delle pensioni più ricche, ovvero le pensioni superiori a 3.500 euro non sarebbero più aggiornate ogni anno al costo della vita, quindi all'inflazione. Attraverso questa forchetta, attraverso questo risparmio qui, i relatori di maggioranza del governo evidentemente pensano e sono fiduciosi di poter ampliare ulteriormente la platea degli esodati e coprire comunque quelli già individuati. Chiarissimo Vincenzo, un'ultima domanda che ti voglio fare: tutta la confusione che c'è stata oggi in merito alle parole del Presidente del Consiglio Mario Monti, dice insomma patrimoniale sì, patrimoniale no, è uscito a un certo punto che insomma che il governo era intenzionato a mettere un'imposta patrimoniale, appunto in realtà poi Palazzo Chigi ha smentito. Sì, è così, infatti partirei proprio dal dal comunicato di smentita, e si dice quando il Premier Monti ha fatto riferimento alla patrimoniale, in quel momento stava spiegando le scelte fatte nel passato, cioè non si è fatta la patrimoniale per determinati motivi. Questa è la spiegazione di Palazzo Chigi, mentre invece questa mattina sembrava che Monti, intervenendo in inglese ad una platea del Financial Times, annunciasse che a breve il governo sarebbe andato su una patrimoniale che lui aveva definito senza blitz, cioè senza accelerazioni improvvise. Chiarissimo. Tra l'altro, nel comunicato dell'esecutivo si scrive: non essendo perciò realizzabile una tassazione generalizzata del patrimonio, il governo nel dicembre 2011 è intervenuto con l'approvazione di tutti i partiti della maggioranza su varie componenti della ricchezza patrimoniale separatamente, con un risultato effettivo in qualche modo paragonabile. Come dire, in realtà la patrimoniale l'abbiamo già fatta. Grazie Vincenzo Miglietta e buonasera. Buonasera. Noi adesso ci occupiamo di Europa. Posto che torneremo più avanti nel corso di Focus Economia su questa scelta di copertura per gli esodati, ossia la deindicizzazione, insomma l'eliminazione dell'indicizzazione all'inflazione delle pensioni più ricche, perché c'è chi di questo si lamenta. Due questioni sul tavolo in queste ore. La più importante al momento a livello complessivo, a livello di sistema, naturalmente, è quella greca. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Allora, apprendiamo dalle indiscrezioni sulla bozza di rapporto della Troica che la Grecia potrebbe avere bisogno di un'altra trentina di miliardi nei prossimi tre anni, più o meno, Beda. Sì, le cifre sono più o meno queste. La Troica, in realtà, il documento che è stato che è uscito qui a Bruxelles è un documento della Commissione europea ed è un documento che rifà un po' i conti della Grecia. Evidentemente la Grecia ha più o meno sospeso il programma di risanamento dei conti pubblici e di rilancio dell'economia all'inizio dell'anno, lo ha sospeso a causa di due tornate elettorali che hanno bloccato il processo politico nel paese. Questo documento fa il punto della situazione e emerge che vi è fondamentalmente un ritardo di circa due anni più o meno nel risanare i conti della Grecia. Si parla in effetti di nuovi aiuti per circa 30 miliardi, ma credo che la cosa più interessante che emerge da questo documento non è qualcosa che è compreso nel documento, ma che non è compreso nel documento, ossia l'analisi di sostenibilità del debito. L'Europa, insieme al Fondo Monetario Internazionale, puntava a un debito della Grecia nel 2020 del 120% del prodotto interno lordo. Le parti stanno negoziando una possibile riduzione di questo debito, ma anche con questa riduzione il Fondo Monetario e la Commissione Europea hanno posizioni diverse. Anche con una riduzione del debito, il Fondo Monetario non crede che la Grecia possa raggiungere il 120% del prodotto interno lordo nel 2020. E questo è un nodo politico molto importante, perché fin tanto che non verrà risolto sarà difficile che le parti si mettano d'accordo sul pacchetto complessivo, che comporterà più tempo per la Grecia per raggiungere gli obiettivi di bilancio e possibilmente più denaro. Ci chiedono anche gli ascoltatori, insomma, che si blocchi, che il nodo politico sia una scadenza del 2020 è, mettiamola così, curioso. Sì, mi rendo conto che è una scadenza lontana. In realtà dietro a questa scadenza del debito si nasconde tutto il programma di politica economica greca. Dietro la posizione del fondo, che non crede a una possibile riduzione del debito anche attraverso una qualche forma di ristrutturazione, c'è fondamentalmente la paura di alcuni azionisti del fondo di avere esposto l'organizzazione internazionale troppo. Ci sono alcuni paesi come la Cina, il Brasile, l'India, alcuni paesi ricchi e emergenti che si rendono conto che il fondo è estremamente esposto nei confronti della Grecia da un punto di vista puramente finanziario e quindi temono per i propri tesori nazionali, perché loro sono azionisti del fondo. Quindi dietro a questo braccio di ferro sulla sostenibilità del debito greco c'è in realtà una battaglia tra gli azionisti del fondo, gli europei da una parte e gli emergenti dall'altra. Ti porto adesso, visto che abbiamo fatto il punto sulla Grecia, su un altro argomento e su un altro braccio di ferro, Beda, che è quello che riguarda il budget comunitario. È un tema sul quale qua in Italia ci si è concentrati molto, perché all'interno di quel pacchetto da 9 miliardi di euro sulla quale i paesi europei stanno discutendo e sul quale si è registrato il muro di 5 paesi, diciamo, del nord Europa, tra cui la Germania e la Gran Bretagna, ci sono all'interno di questi 9 miliardi i famosi 670 milioni per il sisma dell'Emilia. Ora, domani riprende la trattativa sul budget, e che oggi da questo lato ci sono state una serie di dichiarazioni. Come sappiamo, è intervenuto molto duramente il Presidente del Consiglio Mario Monti, telefonando a Barroso e Schulz. Schulz ha dichiarato oggi, dicendo: è inaccettabile che quei soldi non vengano stanziati. A che punto siamo? Ma nulla è veramente cambiato rispetto a venerdì sera. Il problema è semplice. Il sistema comunitario prevede che il bilancio annuale della Commissione, il bilancio comunitario, si chiude in pareggio. Oggi vi è un ammanco di circa 9 miliardi di euro, e questi 9 miliardi sono soldi che devono far funzionare la macchina amministrativa, che devono servire al programma studentesco Erasmus, e anche ci sono anche dei soldi che devono andare all'Emilia Romagna per circa 670 milioni. Allora, vi sono stati alcuni paesi, tra 5 e 8, che venerdì hanno bloccato l'ipotesi della Commissione, che è quella di mettere 9 miliardi in più provenienti dai 27 paesi dell'Unione. Questi paesi non hanno bloccato gli aiuti all'Emilia Romagna, questi paesi sono convinti che le poste di bilancio del bilancio comunitario permettano di trovare denaro. Vi sono delle poste di bilancio, come quello degli affari giuridici o delle relazioni internazionali, secondo questi paesi, che sono state parzialmente inutilizzate finora. Quindi il ragionamento di questi paesi è: anziché mettere nuovi 9 miliardi di denaro fresco provenienti dalle casse nazionali, il loro obiettivo è quello di rifare le priorità tra le poste di bilancio, recuperare denaro nelle poste di bilancio dove c'è ancora denaro inutilizzato e ridistribuirlo. La trattativa per ora è stata bloccata venerdì sera, dovrebbe ripartire domani, con l'idea, mi sembra, di trovare un accordo che possa alla fin fine permettere alla Commissione di erogare i 670 milioni all'Emilia Romagna. Grazie, grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. A chi ci scrive dall'Emilia dicendo, insomma, siamo un po' frustrati da questo modo di affrontare la notizia, è vero anche che è parte oggettivamente di una trattativa. Dall'altra parte c'è da segnalare, in quello che ha detto il Martin Schulz oggi, l'Europarlamento ha chiesto fin dall'inizio che questi 670 milioni fossero trattati indipendentemente da altre questioni aperte. Evidentemente questi 5 paesi hanno deciso diversamente. L'attenzione resta alta su questo tema. Dovremmo avere più tardi, se ce la farà, perché ci sono, insomma, un po' di di problemi da questo lato, dovremmo avere appunto un rappresentante degli industriali di Reggio Emilia, proprio per fare il punto e per capire un po' meglio come stanno le cose, insomma, vedremo se ci riusciremo. Ci chiedete se Martin Schulz, quello del Parlamento Europeo che citavamo prima, è lo stesso che fu chiamato capo da Berlusconi. Sì, è esattamente lui. È il momento della borsa. Ciao Conni, la Radio Corriere del Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, si era partiti abbastanza bene, poi hanno virato in negativo i mercati nel complesso, sulla scorta anche delle notizie in arrivo, dalle indiscrezioni per quanto riguarda la Grecia, la situazione della Grecia. Ma sì, diciamo una seduta abbastanza contrastata che poi si è chiusa appunto con Milano poco sotto la parità, c'è dovuto lo 0,39%, in questo momento Parigi, anche Parigi cede lo 0,3%, mentre Francoforte e Londra sono lievemente positive. A Milano ovviamente diciamo il caso di borsa del giorno è Telecom Italia, che ha guadagnato il 4,2% sulle ipotesi di un ingresso massiccio del magnate egiziano Naguib Sawiris nel capitale, mentre invece le banche hanno ceduto terreno in attesa di una settimana che vedrà molti conti trimestrali da parte delle principali banche italiane, con uno spread tra BTP e Bund che, come dicevi tu, complice anche le nuove incertezze sul salvataggio della Grecia, si è riallargato a ridosso di 370 punti base. E come già dicevi, questo sulle banche pesa, Monte dei Paschi c'è del 3,21%, la Popolare di Milano è il 2,15%, Banco Popolare l'1,65%, la Popolare Emilia Romagna l'1,41%, Intesa San Paolo l'1,32%, UBI Banca l'1,28%. Tra i titoli in negativo, anzi il titolo peggiore di questa giornata, sul FTSE almeno, Campari, meno 5,86%, qua pesano i risultati che evidentemente non sono piaciuti al mercato. Eh sì, erano leggermente sotto il consensus di mercato, cioè quanto pronosticavano i principali analisti che appunto seguono la società. Per esempio il margine operativo lordo si è attestato a 236 milioni quando il mercato appunto se ne attendeva 244, così oggi diciamo che le vendite hanno colpito particolarmente il titolo, una performance che per un'azione come Campari, che diciamo è sempre diciamo uno scoglio a cui aggrapparsi quando i mercati vanno in difficoltà, è abbastanza inusuale, meno 5,8%. Ricordiamo che per esempio negli ultimi tre mesi comunque l'azione ha recuperato il 12%. E male oggi anche A2A, meno 4,4%. Eh sì, giovedì era stato presentato il piano industriale, erano stati presentati anche dei conti trimestrali che erano andati oltre le attese, il titolo era balzato del 5%, poi a vedere bene questo piano industriale, diciamo se sì, aumentano gli investimenti e c'è poi una maggiore concentrazione della società sul taglio del debito, per raggiungere questo obiettivo si ricorrerà anche a un taglio massiccio dei dividendi che verranno normalizzati con un payout del 60% al netto di operazioni straordinarie, un netto cambio di rotta rispetto al passato che sicuramente gioverà diciamo a rendere le basi finanziarie della società più stabile, ma che nell'immediato rende meno appetibile il titolo. Per quanto riguarda, ecco, tra i titoli in negativo oggi c'è anche Finmeccanica che lascia sul terreno il 4,18%. Ci sono dichiarazioni del pomeriggio, anzi di poco fa, a dire la verità, il presidente di Finmeccanica Orsi, che dice che riguardo alle indagini dice l'azienda è estranea ai fatti contestati, all'ipotesi di reato, ha deciso di difendersi. Ma è legato a questo calo, alle vicende ancora dell'inchiesta? Ma anche a questo, ma non insomma, diciamo, non è il motivo scatenante. Da settimane che Finmeccanica, come vediamo ogni giorno, è sull'altalena in borsa, un giorno diciamo alterna sedute pesantemente negative ad altre in cui magari sulla scia delle indiscrezioni, sul fatto che si avvicinano le cessioni o di Avio o di Ansaldo Energia, il titolo guadagna terreno. Diciamo che il filo conduttore è comunque la profonda incertezza che attanaglia la società e soprattutto la sua gestione, che quindi comunque vede il titolo scivolare ogni volta verso i minimi storici. Di Telecom Italia abbiamo detto e torneremo a dire tra poco, sarà uno dei nostri argomenti di approfondimento di giornata, perché vogliamo anche capire che cosa vuole fare questo Sawiris. Bene oggi anche Ferragamo, un guadagno dell'1,72%, e Pirelli più 1,46%. Eh sì, Pirelli a breve diffonderà diffonderà appunto i conti dei 9 mesi, conti dei 9 mesi che anche qui dal consenso degli analisti risultano tutti in crescita, ricavi che dovrebbero passare da 4,2 a 4,5 miliardi con un risultato netto, quindi un utile netto che passerà da 255 milioni a 308 milioni, queste ricordiamo sono le previsioni degli analisti, vedremo a breve appunto mercati chiusi, sarà saranno diffusi i conti al 30 settembre e comunque il mercato sembra scommettere appunto su dei conti positivi. Infine ti chiedo di Terna. Terna invece è stata promossa da Morgan Stanley, Morgan Stanley che ha effettuato uno studio molto approfondito e diffuso oggi sulle principali utility europee, ha paragonato insomma Terna a colossi del calibro di RWE o Iberdrola e ha sottolineato che appunto la Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, garantisce un buon equilibrio tra crescita, potenziale di ristrutturazione e poi ovviamente Morgan Stanley sottolinea che il business di Terna è garantito da una cornice regolamentare piuttosto solida, di qui la promozione del titolo. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corriere del Sole 24 ore e grazie a Ceo Condina, buonasera Ceo. Ciao a voi. E ci chiedete di Fiat in calo oggi del 3,04%, giù Fiat Industrial dello 0,85%, mentre l'azienda ha varato una riorganizzazione, una nuova organizzazione in vista della fusione con CNH, sono state create 4 strutture regionali e alla guida sarà Richard Tobin, che manterrà anche le cariche di presidente e amministratore delegato di CNH. E dunque, siamo alle vicende di Telecom, come si diceva, Naguib Sawiris, patron del gruppo Orascom, fresco della vendita di Wind, ha proposto ai vertici Telecom Italia un investimento fino a 5 miliardi di euro nella compagnia. Lo ha confermato il CDA di Telecom Italia dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal. Dell'interesse su Telecom di Sawiris in realtà si era già scritto nei mesi scorsi sul Sole 24 Ore, insomma. Bisogna dirlo, Telecom conferma di aver ricevuto una manifestazione di interesse a investire mediante sottoscrizione di nuove azioni. Stando al Wall Street Journal, l'offerta potrebbe portare Sawiris a detenere fino al 30% del capitale del gruppo di telecomunicazioni. Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, ciao. Allora, che intenzioni ha questo Sawiris? Intanto diciamo che alle nostre verifiche le cifre sembrano un pochino più basse di quelle che sono uscite sulla stampa internazionale, sia come importo che come quota. Comunque, al di là di questo, diciamo che è un po' particolare questa offerta che cade in un momento in cui la Telecom sta trattando con la CDP per l'ingresso della CDP a un piano inferiore, cioè quello di un'eventuale società dove verrebbe conferita la rete di Telecom. Sawiris non è un europeo, nel senso che è un operatore, è l'imprenditore di un gruppo di telecomunicazioni extra europeo, e nel capitale della Telecom c'è invece un operatore europeo che è Telefonica. Quindi direi che non è un'offerta che si possa pensare che vada avanti senza provocare delle reazioni sia da parte dell'azionariato che c'è attualmente, ma io penso anche da parte del governo e della stessa CDP che sta trattando a un piano inferiore. Questo chiaramente. E secondo te come pensa Sawiris di bypassare queste perplessità che quando riguardano gruppi industriali, insomma, così strategici ci sono sempre? E pensa davvero di poterle bypassare o è una mossa di qualche altro tipo, con qualche valenza strategica di qualche tipo? Beh, ecco, potrebbe anche essere una mossa di altro tipo, di tipo finanziario. Io penso che sia una specie di partita poker che è appena iniziata e quindi ci sono i bluff e ci sono e poi le giocate vere. E io penso che adesso siamo proprio in una fase iniziale ed è difficile fare il processo alle intenzioni, ma francamente, in fin dei conti, che cosa avrebbe da perdere Sawiris nel provarci? Nulla. Però bisognerà vedere le reazioni delle altre parti. E questa partita dove potrebbe portare? riassetto complessivo del settore? Beh, diciamo, tutte le telecomunicazioni italiane sono finite in mano straniera. Possiamo permetterci di perdere anche la Telecom Italia, che ha anche Italia nel logo? Non lo so. Tra l'altro, Sawiris aveva provato un approccio, come si diceva, e lo avevate scritto sul giornale proprio nei mesi scorsi, se non sbaglio un mese fa, addirittura con, sì, Telefonica, un'altra specie di bluff, mi sembra di aver capito. Come funzionò quella volta, da quel che eravate riusciti a capire? Ma quella volta avevamo avuto l'indiscrezione che c'era un interesse da parte di Sawiris di farsi avanti, poi come sia andata esattamente sulle voci è difficile stabilire. Adesso c'è un dato di fatto: ha presentato una lettera al Consiglio che è stata esaminata nel Consiglio ultimo dell'8 di novembre e credo non senza qualche discussione si è deciso comunque di approfondire il discorso. Secondo te gli investitori internazionali, chiamiamoli così, insomma, quelli che hanno un po' meno interesse a starci dentro, diciamo, no? Gli speculativi, penso per esempio a BlackRock, che è nell'azionariato della società che controlla Telecom, che è Telco, potrebbero essere interessati a cedergli qualcosa a Sawiris? Ma qui non si parla di cedere azioni esistenti, bensì di immettere soldi in Telecom con un aumento di capitale riservato. Quindi l'interesse più che altro potrebbe essere quello dei soci che hanno partecipazioni rotonde di non vedersi diluiti, ma non si sa se questa ipotesi andrà avanti, se l'aumento di capitale riservato resterà tale oppure se potrebbe essere accompagnato da un aumento di capitale in opzione agli azionisti, ma direi che è troppo presto per arrivare alle conclusioni. Più che altro è comunque una mossa che smuove le acque, questo non c'è alcun dubbio. Smuove le acque, e che tempi prevedi? Secondo che idea hai, Antonella, visto che sei sul settore, in particolare ti occupi di questa azienda da parecchio tempo, che tempi prevedi dal lato non solo della risposta che dovrà dare l'azienda, perché insomma Galateri ha confermato che ci sarà un CDA per approfondire la questione, come ovvio, ma soprattutto direi a questo punto anche da parte governativa, se così vogliamo. Dal punto di vista societario c'è poco meno di un mese di tempo, perché c'è già un consiglio che è fissato per il 6 di dicembre e non ce ne saranno altri prima, quindi sicuramente il 6 di dicembre si parlerà anche di questo. E penso quindi che da qui al 6 dicembre ci saranno tutte le reazioni del caso a questa ipotesi. Perfetto, vedremo quindi che cosa succederà a questo punto. Noi adesso ci occupiamo di tutt'altra partita, una partita che si sta svolgendo dall'altra parte dell'oceano. Parliamo di Basilea 3, che è quel complesso di regole per i requisiti patrimoniali delle banche, ma soprattutto in questo caso parliamo di derivati e non solo. Vi do una notizia: è ricominciato tutto. È ricominciato tutto, non ve ne foste accorti, non aveste letto abbastanza attentamente Il Sole 24 Ore, non solo quello di sabato, ma insomma quello che si sta scrivendo da qualche tempo, da qualche mese. Quei derivati che non vogliono uscire dai bilanci, mettiamola così, anzi continuano ad aumentare. Così la Fed ha pensato bene di rinviare l'entrata in vigore di Basilea 3, quegli accordi appunto che impongono criteri patrimoniali stringenti alle banche, quei criteri dei quali le imprese anche giustamente si lamentano, perché dicono: quando entreranno in vigore? Insomma, già c'è una stretta del credito, figurati quando entra in vigore questa roba. Moria Longo, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, cosa succede? La Fed ha deciso di rinviare l'entrata in vigore di Basilea 3, cosa che l'Europa pare non essere intenzionata a fare. Le banche italiane chiedono nel frattempo che invece si faccia la stessa cosa anche da queste parti. E perché rinviano? Ma la motivazione ufficiale messa in un comunicato stampa dell'altra sera molto stringato è che serve più tempo sostanzialmente per comprendere queste regole e per adeguarsi. È curioso perché le banche europee invece ci hanno messo molto meno tempo a capirle, per cui evidentemente o siamo più intelligenti noi oppure non lo so. Detto questo, va premesso il fatto che appunto sono state solo rinviate, anche se non hanno detto a quando, non hanno detto come, però comunque non è che dicono, gli americani dicono noi non vogliamo adeguarci a Basilea 3, dicono semplicemente che l'hanno spostato in avanti nel tempo. La motivazione che io ho analizzato in questo articolo riguarda il fatto che Basilea 3 prevede requisiti di capitale più stringenti per le banche che operano molto in derivati, cioè per tutte le banche che operano in derivati, soltanto che le banche europee, tranne alcune, operano poco in derivati, soprattutto quelle italiane. Quelle americane operano tantissimo con i derivati. Vi do solo un numero: attualmente le banche americane hanno nei bilanci 222 mila miliardi di dollari di derivati. Si tratta, considerate che il PIL del mondo è 65 mila miliardi di dollari più o meno, e le banche lo superano, i derivati solo nelle banche americane lo superano abbondantemente. Ma l'altro dato interessante è che dal 2007, quando è iniziata la crisi finanziaria, i derivati nei bilanci delle banche americane sono aumentati del 44%, 45%, quindi sono molto aumentati. Questo è interessante perché giustamente ci scrive un ascoltatore e dice è ricominciata, in realtà non è mai finita ed no. Esattamente così. Perché il grafico che avete pubblicato nell'edizione di ieri è, mi sembra, molto esplicativo, insomma, le barre continuano a crescere. Sì, sì, in America, negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, i derivati stanno aumentando tantissimo, ma quello che colpisce di più è la concentrazione, perché se 222 miliardi sono i derivati in tutte le banche americane, secondo questo Office of the Controller of the Currency, che è quello che tiene appunto la contabilità su queste materie, ebbene, se 222 la torta totale dei derivati in America, praticamente il 95% sono nelle prime quattro banche americane. Soltanto JP Morgan, per intenderci, ha 69 mila miliardi di dollari di derivati in bilancio. Che per intenderci, ritornando al paragone di prima, è la dimensione del PIL mondiale. Del PIL mondiale, esattamente. Questo fa anche capire come la finanza si è completamente scollata dalla realtà. Bisogna fare una precisazione. Questi sono i valori nozionali, cioè il valore di contratto ai derivati. L'esposizione reale è molto più bassa, perché molto spesso i derivati sono talmente tanti che ogni singola banca ne fa di un verso e del verso opposto con le stesse controparti. Questo annulla, è come se uno prendesse il tram per andare e per tornare indietro, quindi in questo modo si annullano le esposizioni, però la montagna di derivati c'è lo stesso e questo crea un rischio enorme, per esempio un rischio di controparte, perché anche se uno fa un derivato con una banca e poi lo annulla con la stessa banca con un derivato in segno opposto, basta che la controparte fallisca, come è accaduto a Lehman Brothers, che le due posizioni, pur annullandosi nel momento in cui c'è un fallimento, si crea una perdita nella banca che questi derivati l'ha stipulati. Quindi diciamo che c'è un rischio molto forte in questa montagna di derivati, è un rischio dovuto al fatto che è una montagna veramente inimmaginabile, veramente gigantesca. Ebbene, tutte le regolamentazioni che in America spingono o comunque andrebbero a ridurre questo utilizzo indiscriminato e fortissimo dei derivati, che ripeto, i derivati non sono il male assoluto, bisogna vedere che utilizzo se ne fa. Sì. Se si scollano completamente dalla realtà, allora qualche problema a mio avviso lo pongono. Ebbene, tutte le regole che miravano a limitarne l'utilizzo in realtà sono state tutte posticipate. Basilea 3 è una regolamentazione internazionale, aveva un impatto sui derivati perché raddoppiava di fatto la quantità di capitale che ogni banca deve avere a fronte del rischio di controparte che portano i derivati. Quindi se una banca ha tanti derivati deve mettere più capitale da parte. Mettere più capitale da parte significa o fare un aumento di capitale oppure usare meno i derivati. Quindi questo avrebbe quantomeno limitato l'attività in derivati, cosa che, rinviando appunto l'entrata in vigore di Basilea 2, avverrà più avanti, ma non adesso. Ma anche altre normative sono state rinviate, per esempio la cosiddetta Volcker Rule. È una regola che prende il nome dall'ex presidente della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, che mirava a limitare la speculazione finanziaria anche sui derivati e sul trading. Ebbene, anche questa, che doveva entrare in vigore luglio scorso, è stata rinviata. Ebbene, la sensazione è che in America stiano cercando di rinviare il più possibile quelle normative che comunque sono state approvate, per esempio, al Parlamento, mirano a limitare, a contingentare un'attività speculativa molto forte delle banche americane, su cui le banche americane sono particolarmente operose. Allora, abbiamo poco tempo per chiudere con Moria Longo e poi per gli altri argomenti di questa giornata. Moria, voglio chiudere con te, con un altro fatto che tu segnali in questo articolo, che ha già segnalato nei giorni scorsi, che in realtà le banche americane stanno ricominciando anche con i subprime, con i mutui subprime. Sì, con i mutui, ma soprattutto con i finanziamenti credito al consumo, soprattutto credito per l'acquisto di auto, quindi anche società finanziarie. Per esempio, appunto, sono ripresi, ma da tempo, non è una cosa di adesso, è da un bel po' di tempo, sono ripresi i finanziamenti subprime, sono quelli erogati a persone che hanno un reddito basso o comunque una scarsa affidabilità creditizia, quindi che sono quei mutui da cui partì la crisi finanziaria del 2007. Ebbene, sono riprese le erogazioni, ripeto, soprattutto di crediti per acquisto di auto, e sono anche riprese le cartolarizzazioni di crediti di mutui, di finanziamenti subprime, che sono quelle, appunto, sembra di tornare indietro nel tempo, da cui tutto partì nel 2007. Vedremo che cosa succederà anche da questo lato, immagino che, insomma, che dovremo monitorare naturalmente. Grazie Moria Longo del Sole 24 Ore. Brevemente veniamo agli ultimi due argomenti, ritornando innanzitutto, come già preannunciato, sulla legge di stabilità. E su un punto in particolare della legge di stabilità, il nodo degli interventi in favore degli esodati, come si diceva, i relatori hanno presentato un nuovo emendamento con una copertura adeguata che è stata certificata dalla ragioneria, prevede la deindicizzazione delle pensioni 6 volte superiori al minimo. La cifra che veniva indicata oggi era intorno ai 3.000 euro. Saluto Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager, buonasera. Buonasera a lei. Molto brevemente, Ambrogioni, in realtà l'indicizzazione delle pensioni più alte era già bloccata, no? Per un prossimo biennio. Qui si immagina una soluzione sine die, quindi una cosa inaccettabile. Queste sono già pensioni tartassate da vari provvedimenti, 5 o 6 in questi ultimi anni. Si immagina di fatto una sterilizzazione pro futuro. E questo è inaccettabile. Però si dice dall'altra parte, ci scrivono gli ascoltatori, insomma, qualcuno dovrà pur pagare, no? Ma non sempre gli stessi. Cioè, bisogna entrare in questa. Ma in che paese viviamo? Queste sono pensioni che nascono da contributi versati per tutta una vita, da gente che ha avuto responsabilità, meriti, rischi. Cioè, se vogliamo una società appiattita, allora è un altro mondo. Questo è un governo che si riempie la bocca di merito, di responsabilità, e penalizza il merito e la responsabilità. È gente che paga le imposte fino all'ultimo centesimo, non si può insistere sempre sugli stessi. Siamo oggettivamente molto delusi da questo governo per questi provvedimenti, sempre più delusi. Molto brevemente, 30 secondi, secondo lei cosa andava fatto sul fronte degli esodati per trovare i soldi? Perché in qualche modo bisognava risolvere. Intanto bisognava che il ministro Fornero sentisse le categorie prima di fare una riforma in quel modo che ha prodotto questo abnorme danno per le persone. Secondo, corruzione, spending review vera. Vendiamo gli immobili dello Stato, degli enti locali che sono fonte di corruzione, come vediamo tutti quanti i giorni. C'è la possibilità di trovare risorse per gli esodati, ma non penalizziamo sempre le stesse persone, sempre le stesse categorie. Grazie a Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager, una delle tante opinioni naturalmente che ospitiamo quotidianamente. Noi siamo quasi in chiusura, abbiamo 5 minuti, però vogliamo ritornare anche qua sulla vicenda del terremoto, dei fondi per il terremoto dall'Unione Europea. La vicenda ormai la conoscete, ve ne abbiamo parlato anche in apertura. Germania, Olanda, Finlandia, Svezia e Gran Bretagna hanno bloccato gli aiuti europei all'Emilia-Romagna per il terremoto. Ecco, metterla così forse non è proprio correttissimo, nel senso che sono stati bloccati questi 670 milioni insieme agli altri 9 miliardi eccedenti il bilancio 2012, cioè l'Unione Europea aveva fatto un budget, mancano 9 miliardi alla fine dell'anno, questo bilancio va corretto e dentro questi 9 miliardi ci sono 670 milioni. Il Martin Schulz del Parlamento Europeo ha detto: avevamo chiesto che questi 670 fossero trattati a parte. Saluto Stefano Landi, presidente degli industriali di Reggio Emilia. Buonasera. Buonasera. Allora, come l'avete vista questa vicenda? L'abbiamo vista brutta, diciamo prima di tutto che comunque sono fiducioso che appunto entro domani il tutto rientri come deve rientrare, quindi questo provvedimento di aiuto pari a 670 milioni venga definitivamente approvato. Ecco, certamente non è stato un bel segnale, voglio dire, anche questo è uno di quei segnali in cui poi tutti ci facciamo le riflessioni e ci chiediamo e constatiamo che siamo veramente lontani dagli Stati Uniti d'Europa. Non è un bel segno di solidarietà europea, direi, no? Comunque. No, infatti, anche perché naturalmente perfetta l'introduzione, e cioè questi 670 milioni fanno parte di un grosso pacchetto, diciamo così, di sforamento, quindi 9 miliardi. Però ecco, ritengo che questi milioni che già appunto ci erano stati promessi dovessero essere e debbano essere trattati in modo diverso. Senta, io adesso però poi la vorrei portare più in generale sulla situazione e sul come siete messi, insomma, come sta andando la ricostruzione, presidente? Ma la ricostruzione sta andando avanti in modo veramente deciso, grazie appunto a tutte le persone, alle istituzioni locali che fin dal minuto dopo si sono e si stanno adoperando per poter ritornare nel più breve tempo possibile alla normalità. È chiaro che, come abbiamo già avuto modo di dire in tante altre occasioni, questo terremoto avviene sicuramente in un momento già particolarmente difficile. La situazione economica produttiva a livello generale e anche nella nostra zona certamente non stiamo attraversando una fase di positiva, ecco. Grazie a Stefano Landi, presidente degli industriali di Reggio Emilia, per essere stato con noi, con il quale appunto abbiamo commentato questa vicenda dei fondi che dovevano arrivare dall'Unione Europea e che probabilmente arriveranno nei prossimi giorni, ma comunque teniamo monitorata la situazione, come si dice, scusate la brutta parola, insomma, la terremo sotto controllo, mettiamola così. In chiusura, prima di chiudere, i dati che riguardano il nostro gruppo editoriale, il Sole 24 Ore, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012, ricavi a 315,9 milioni di euro, posizione finanziaria netta positiva per 28 milioni di euro, bene l'andamento dei ricavi di diffusione del quotidiano in controtendenza rispetto al mercato, più 0,9 milioni di euro, crescita della diffusione cartacea, più 2,2%, molto bene gli abbonamenti PDF e iPad, più 95%. Radio 24, e questo lo sapete, si conferma tra top 10 delle radio nazionali più ascoltate con 1.872.000 ascoltatori. La quota di mercato in secondi passa dall'8,2% del 2011 all'8,3% del 30 settembre 2012. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleone in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, e il Focus Economia torna naturalmente domani dopo il GR delle 17.